che si occuperà di foibe. Oggi, come sapete, è la giornata del ricordo, istituita ormai un decennio fa, era il 2004, il governo era governo Berlusconi. Questa diciamo controversa giornata del ricordo l'andremo ad analizzare con particolari riferimenti e parlando della storia, di cosa effettivamente è successo. Ricordo che i microfoni di Radio Onda Rossa sono aperti, quindi chiunque voglia dire la sua, fare un intervento è invitato insomma a farlo. Il telefono è 06 49 17 50 e dunque andiamo ad analizzare questa giornata del ricordo. Beh, innanzitutto diciamo fissiamo che cosa, come è stata istituita questa giornata e quando. Come dicevi tu, la legge risale al marzo al 2004, esattamente il 30 marzo del 2004, la legge è la numero 92, con la quale il Parlamento ha dichiarato il 10 febbraio giornata del ricordo, al fine, leggo testualmente, di conservare, rimuovere e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. E questa legge poi, nel proseguo, prevede insomma un riconoscimento i cosiddetti infoibati, ai quali sono assimilati a tutti gli effetti gli scomparsi e quanti nello stesso periodo e nelle stesse zone sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 47 e dentro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento. Questa è la dizione, diciamo, stringata, ufficiale di questa istituzione attraverso la legge del 2004 della giornata del ricordo, dedicata principalmente, se non esclusivamente, alle vittime delle cosiddette foibe. Di questo c'è stata un uso che insomma vediamo oggi, solo per leggervi, insomma, questo è sotto mano, c'ho il Tempo, ma anche il Giornale, c'è un articolo di Veneziani, il Tempo nella pagina interna dice: Togliatti e il PC complici delle foibe, oggi il giorno del ricordo. Una scrittrice, Elena Cace, racconta le stragi di Tine, i comunisti non ascoltarono mai le ragioni di Striani e Giuliano Dalmati, e così via, e altre, insomma, se ne sono succedute, più iniziative che, come quella ad Albano di oggi, dei fascisti, compresa Forza Nuova, insomma, che tentano di strumentalizzare questa giornata, questa commemorazione, insomma, riproponendo che cosa? Riproponendo sostanzialmente due cose. Uno, un discorso anticomunista, non solo anti-PC, qui è anticomunista nel senso che tutto si vuole addossare al comunismo, no? Da quando, insomma, il libro nero del comunismo, quanto è grande questo libro nero? Il libro nero del comunismo è infinito, insomma, no? Nel senso che tutti ci mettono anche quello che non compete magari al comunismo. Quindi leggere questi titoli, Togliatti e il PC complici delle foibe, non è soltanto questo, cioè una rivincita, tra virgolette, che la destra fascista o post-fascista che sia di questo paese cerca di avere questa rivincita nei confronti delle sinistre italiane ormai definitivamente scomparse. È proprio un impostazione che ha per obiettivo accusare, mettere sul banco d'accusa il comunismo in quanto tale, il movimento comunista in quanto tale nelle sue diverse evoluzioni ed espressioni storiche, e dall'altro contemporaneamente, oltre a questo, nascondere, omettere, cancellare quelle che sono state le nefandezze prima del fascismo, del regime fascista, e poi quelle anche del successivo comportamento della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza su questi argomenti. Perché? Perché l'attenzione che viene posta su queste vicende della Istria, Dalmazia, eccetera, eccetera, fa azzera completamente quello che è stato, insomma, una minima riassunto, descrizione, sintesi di quello che è stato un processo storico che si è sviluppato già prima dell'avvento del fascismo, già all'indomani della Prima Guerra Mondiale, quando sostanzialmente, cito in questo caso Marco Ottanelli, che è uno degli storici ricercatori insieme ad altri, Giacomo Scotti, Nicola Tranfaglia, più recenti Alessandra Kersener, insomma, e ce ne sono tanti che hanno dedicato, Giovanni Bellini, Sandro Damiani e così via, che hanno dedicato ricerche documentali, insomma, approfondimenti su tutta questa vicenda, insomma, che se si vuole inquadrare nel giusto periodo storico bisogna partire appunto dalle non tanto, insomma, sarebbe eccessivo partire dalla Repubblica Veneziana, insomma, la Repubblica di Venezia, la Repubblica Veneta, che già su quelle terre aveva messo gli occhi, ne aveva fatte una provincia della loro grande potenza. Ma dopo la Prima Guerra Mondiale, cioè quando i nazionalismi si affermano fino a sfociare nei razzismi di Stato, che appunto il Regno d'Italia comincia una politica di italianizzazione forzata delle terre irredente, così si chiamavano le terre irredenti, no? Della Istria, Dalmazia e compagnia bella. Da ogni regione arrivano infatti funzionari, impiegati pubblici che sostituiscono i funzionari locali, comincia una già il parlare di italianizzazione, e ci vogliono le virgolette perché non è un processo accettato, sposato, condiviso dalle popolazioni locali, è stato tutto un processo forzato, imposto letteralmente con la forza. La lingua ufficiale obbligatoria diventa l'italiano, cioè l'italiano viene imposto come lingua ufficiale e viene fatto divieto all'uso dei dialetti, delle lingue dei popoli presenti sul territorio, sono letteralmente proibiti, e queste proibizioni aumentano via più con l'avvento del fascismo. Se l'effetto di tale norma è assai violento nelle città della costa, dove comunque gli italiani erano in maggioranza o assai numerosi, e dove il bilinguismo o trilinguismo erano la norma, è nelle zone rurali e nell'interno che gli slavi, sloveni, croati, dalmati, in gran parte cittadini poco alfabetizzati, si ritrovano ad essere stranieri in patria. Le durissime condizioni imposte dal regno si fanno ancora più rigide ed intolleranti col fascismo. Quindi siamo ancora, insomma, agli inizi. Il fascismo non è arrivato, però già questo processo di italianizzazione forzata è avvenuto. Tra gli episodi da ricordare, e qui è Marco Ottanelli che scrive, la chiusura del liceo classico di Pisino, dell'istituto magistrale femminile di Pisino e del ginnasio di Volosca, 1918, la chiusura delle scuole elementari slovene e croate, il confino di alcuni esponenti sloveni e croati in Sardegna e in altre località italiane. A ciò si aggiungevano le violenze fasciste non contrastate dalle autorità, come gli incendi delle sedi associative a Pola e a Trieste. In Istria l'uso dello sloveno e del croato nell'amministrazione e nei tribunali era stato limitato già durante l'occupazione del 1918-1920. Nel marzo del 23 il prefetto della Venezia Giulia vietò l'uso dello sloveno e del croato nell'amministrazione, mentre per decreto regio il loro uso nei tribunali fu vietato il 15 ottobre del 1925. Poi arriva la riforma Gentile, e con la riforma Gentile, insomma, c'è la botta definitiva con l'imposizione proprio della dottrina fascista in tutte le sue articolazioni. L'attività delle società e delle associazioni croate e slovene era stata vietata già durante l'occupazione, e c'era stata la legge sulle manifestazioni pubbliche del 1926, la legge sull'ordine pubblico sempre del 1926, poi nel 27 fu la volta del cambiamento dei cognomi, addirittura, no? Si arrivò a questo, quindi lo sradicamento completo della memoria di quelle popolazioni, della loro identità, eccetera. La toponomastica era già stata italianizzata nel 1923, quindi anche la sostituzione delle strade e così via. Così vennero italianizzati quasi tutti i cognomi sloveni e croati, un vero atto di brutalità verso le identità personali. Le leggi razziali antiebraiche e genetiche, siamo già al 1938, che seguono le meno famose, meno organiche, ma altrettanto famigerate leggi razziali del 36-37 emanate nei confronti dei popoli di pelle nera e altri coloniali, dividono ancor più la cittadinanza in due categorie, gli italiani puri e gli inferiori. Duramente colpita in particolare la numerosa e antica comunità ebraica di Trieste, da sempre città, insomma, cosmopolita. Nel 41, poi siamo alla Seconda Guerra Mondiale, dove tutte queste cose si induriscono in un modo terribile. Dopo un criminale bombardamento su Belgrado che viene raso al suolo da tedeschi, ungheresi e italiani, dai tedeschi, che insieme agli ungheresi e gli italiani invadono letteralmente la Jugoslavia, occupandola completamente in poche settimane. All'Italia spettano l'intera colonna dalmata, parte del Montenegro, quasi l'intera Slovenia e la Croazia sotto forma di protettorato. La Slovenia viene annessa e diventa la provincia di Lubiana. La Croazia diventa un regno indipendente con ministro Ante Pavelic, fascista dei più feroci e anche sanguinari, amico di vecchia data di Mussolini, e come re un cugino di Vittorio Emanuele III, Aimone di Aosta, insomma questi rampolli della dinastia dei Savoia. Il partito fascista e razzista croato, gli Ustascia, formato da fanatici religiosi, cattolici e nazionalisti, appoggiati dal vescovo di Zagabria e primate di Croazia Stepinac, intraprendono fin da subito un'opera di pulizia etnica nei confronti di serbi e altre minoranze, spesso spalleggiati dalle truppe italiane. L'intera Jugoslavia diventa territorio di stragi e di crudeltà. Alla fine della guerra sarà uno dei paesi che avrà pagato il più alto tributo di morti, da calcolarsi in circa 1,5 milioni di persone su 16 milioni di abitanti. In particolare sono da attribuirsi alla responsabilità diretta delle truppe di occupazione italiana almeno 250.000 morti, che le fonti serbe però portano a stimare in un totale di 300.000. Di questi morti in combattimento sono una parte esigua, cioè di questi 250.000 morti fatte dall'esercito di occupazione italiano, che era l'esercito regolare più i battaglioni M, più le camicie nere, più le formazioni squadriste e fasciste organizzate militarmente. Di questi 250.000 morti, al solito, come spesso succede, come sempre anzi succede, quelli morti in combattimento sono una minima parte, il resto delle vittime fu dovuta a vere e proprie stragi e repressioni, a saccheggi e a brutalità. In particolare è da ricordare il ruolo della seconda armata italiana sotto il comando del generale Roatta. Il generale Roatta, è bene dirlo, insomma, è stato vanamente perseguito come criminale di guerra, ma alla fine, insomma, se l'è cavata come tanti altri. E di tutte queste vicende, insomma, che sono state stragi enormi, che hanno comportato delle brutalità senza precedenti, hanno una radice solidissima in quella che era proprio il pensiero fascista e nazista. Vale la pena di citare brevemente, no? Voglio leggere due brani, uno di un discorso di Mussolini del 1920 e l'altro di una lettera di Martin Bormann, che era il segretario del Partito Nazionalfascista in Germania, che è una lettera del 1942. Quindi ci sono 20 anni di distanza tra il discorso di Mussolini e la lettera di Bormann. In mezzo ci sono tante cose, c'è l'ascesa al potere di Hitler, tutto quello. Ma per dimostrare una cosa, che come spesso accade la falsa coscienza di questo paese ha tenuto a minimizzare il ruolo di Mussolini, del fascismo, rispetto a quello del nazismo, no? Della serie, appunto, italiani brava gente, in fondo sì fascisti, ma in fondo non gli facevamo tanto male agli abissini, ai libici, agli eritrei, eccetera, eccetera, e così come non abbiamo fatto tanto male dove ci siamo recati a occupare terre e paesi in Grecia, in Jugoslavia, appunto in Albania, insomma, no? Dove queste poverissime nazioni sono state attaccate militarmente senza nessuna motivazione da parte dell'Italia, se non per le brame imperiali di Pippetto, che era Vittorio Emanuele III e del Duce, perché volevano farsi l'impero, quindi insomma. Bene, e nel 1920, fascismo non ancora pienamente affermato, Mussolini però già fa i suoi bei discorsi e dice in uno di questi discorsi queste parole: di fronte ad una razza inferiore e barbara come quella slava non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino ma quella del bastone. I confini dell'Italia devono essere il Brennero, il Nevoso e le Dinariche. Io credo che si possano sacrificare 500.000 slavi barbari a 50.000 italiani. Questo lo diceva, se lo diceva Mussolini nel 20, nel 42 Martin Bormann, quindi quanto ha preso il nazismo dal fascismo, no? Poi magari ci ha messo del suo, ci mancherebbe, insomma, ma questo per dire che quando si parla, magari qui piace tanto parlare di cattivi maestri e dire che il nazismo è stato il peggiore dei mali, ma il nazismo deve tanto in termini ideologici di impostazione al fascismo italiano, quindi a tutti i fascisti italiani che viceversa pensano di accreditarsi come anime in fin dei conti se non buone, però compassionevoli e tenere. Dice Bormann in questa lettera del 1942, che è presa da un libro di Lucio Villari, che è uno storico che è proprio dedicato a quel periodo. Dice Bormann: gli slavi sono tenuti a lavorare per noi. Coloro di cui non abbiamo bisogno possono anche morire. L'istruzione è pericolosa. Sarà sufficiente che possano contare fino a 100. Quanto ai viveri, non ne avranno più dello stretto necessario. Noi siamo i padroni e veniamo prima noi. Questa era la concezione che avevano fascisti e nazisti degli slavi. Non era neanche dire siamo a diciamo a concepire una guerra coloniale come hanno intrapreso altri imperi coloniali di quel periodo, anche precedentemente al nazismo e al fascismo, come può essere il ruolo stato, il ruolo dell'Inghilterra, della Francia, dello stesso Belgio, insomma, no? Che avevano creato questi imperi coloniali. E qui siamo non solo molti anni dopo la creazione di questi imperi, che sono comunque precedenti, ma siamo alla formulazione di una motivazione di guerra, motivazione di occupazione, di annientamento, che ha origini prettamente razziste, dove si dice espressamente che gli slavi, tutti, i serbi, i sloveni, i croati, sono una razza inferiore. Queste sono le origini di queste azioni poi nel tempo intraprese, prima dalla occupazione appunto fascista di quei luoghi, prima ancora dal Regio Esercito Italiano, prima ancora che Mussolini salisse al potere con l'italianizzazione di quelle zone, e poi con nel 41, appunto, come si diceva, con questo inizio di massacri senza fine, allorquando la resistenza jugoslava, del popolo jugoslavo, in quel momento riunito indifferentemente, insomma, rispetto alle etnie di provenienza, quindi non più sloveni, croati, serbi, ma jugoslavi, se vogliamo dire così, che è una dizione in qualche modo inventata, ma comunque uniti nel combattere il dominatore nazista fascista e i suoi alleati locali, che erano appunto, come abbiamo visto, per esempio gli Ustascia, che erano stati messi in piedi proprio dal fascismo e dal nazismo, insomma. Ecco, allora quando comincia questa resistenza nei confronti di, dei fascisti e dei nazisti, ecco che arrivano le stragi, e arrivano stragi per 250.000 come ordine di grandezza morti, che comprendono delitti come quelli che ci vengono descritti. Ripeto, qui la documentazione non è difficile trovarla neanche in rete, e però insomma nei resoconti di questi storici che si sono occupati, insomma, le descrizioni sono veramente efferate, insomma. Spesso i partigiani slavi o gli indifesi abitanti delle campagne erano bruciati vivi su roghi di fascine o chiusi nelle chiese ortodosse, che furono distrutte in questo modo in gran numero. Le deportazioni della inferiore razza serba furono massicce, e decine di migliaia di ex soldati o di cittadini serbi fu avviata ai campi di sterminio tedeschi o a quelli della risiera di San Sabba a Trieste, assieme con ebrei ed altre minoranze. Ecco, anche qui, no? Come si fa a, proprio volendo attualizzare il discorso, a concepire una giornata del ricordo dedicata alle foibe senza che ci sia alcun riferimento a, per esempio, ma proprio come esempio che non si è potuto negare, perché almeno e si è tenuto all'oscuro fino a una ventina, trentina d'anni fa, quando qualcuno finalmente ne ha cominciato a parlare di questa risiera, che era un forno crematorio. La risiera di San Sabba veniva ammazzata la gente, insomma, e stava in Italia, non è che c'erano solo Auschwitz e compagnia bella. Gli occupanti italiani costruirono campi di concentramento che, seppur non scientificamente predisposti allo sterminio, furono la causa di migliaia di morti e di infinite sofferenze. Tutti conosciamo Auschwitz e Buchenwald, ma decenni di censure ci hanno impedito di sapere che noi, italiani, costruimmo e gestimmo i lager di Kraljevica, Lopud, Kupari, Korica, Brak, Var, Rab, che è l'isola di Arbe, e furono creati campi anche in Italia, per esempio a Gonars, Udine, a Monico, a Treviso, a Renici di Anghiari, vicino Arezzo, e a Padova. Secondo stime rapportate nel volume dell'Ampia, pericolosi nelle contingenze belliche, i fascisti internarono quasi 30.000 sloveni e croati, uomini, donne e bambini. In Slovenia, già dall'ottobre del 1941, il tribunale speciale pronuncia le prime condanne a morte. Il mese dopo entra in funzione il tribunale di guerra, perché poi questa era la giustizia che esercitavano i fascisti attraverso questi tribunali, allorquando, insomma, si faceva la finta di giudicare le persone, insomma, no? Quindi di portarle per finta di fronte a un tribunale, ma che rapidamente venivano, oppure altrimenti venivano passate direttamente per le armi nei modi che abbiamo descritto. Adesso un breve stacco musicale e poi vediamo di attualizzare il discorso, perché oggi, insomma, appunto, in questa giornata l'abbiamo sentita ai Castelli, ma la situazione, possiamo esserne certi, nella giornata di oggi a livello nazionale verificherà tentativi di strumentalizzazione di questa giornata da parte delle formazioni fasciste di destra. E nell'eccitazione dell'azione concitata coltivo la speranza d'una bella gomitata. Fallo per me, fallo per te, fallo se lo devi fare, ma fallo per sport. Non ho più nessun legamento, ho libera articolazione, 14 punti sul mento e 2 settimane in trazione. Io non ho fatto gol, ma ho fatto di meglio, ho morso un terzino sul collo. Fallo per me, fallo per te, fallo se lo devi fare, ma fallo per sport. Fallo per sport. Per di nuovo in onda, abbiamo un compagno in collegamento. Di nuovo in onda, abbiamo un compagno in collegamento. Ci senti? Pronto? Ci senti tu? Sì, sì, vi sento benissimo. Perfetto, perfetto. Ti sentiamo anche noi. Pronto? Ci eravamo già sentiti con i compagni di una trasmissione precedente, perché sia come un caso del tutto particolare, emblematico, cosa è avvenuto? È venuto che gli storici contemporanei con Dante avevano chiesto una sala per fare una conferenza. Ti sentiamo male, potresti stare più vicino al... Pronto? Beh, forse è caduta la linea. Solo faccio, fallo per me, fallo per te, fallo e rifallo fin quando ce n'è, fallo de punta, fallo de tacco, fallo in difesa e in attacco. Fallo cattivo, ma fallo purché sia per sport. Fallo per sport. Per sport. Fallo per sport. Per sport. Fallo per sport. Per sport. Fallo per sport. Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax. Onda Rossa, @ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito. Allora, siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Gavino. Ciao Gavino, sei in onda. Ecco, buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti e a tutti. Dunque, si tratta di questo. Venerdì scorso è successo un fatto piuttosto singolare qui a Como, relativo alla questione della giornata del ricordo. L'Istituto di Storia Contemporanea con l'AMPI, cittadino, avevano organizzato una conferenza con Adriana Kersevan sulla questione dei campi di concentramento italiani per jugoslavi. Cosa succede? Dietro questa richiesta della sala comunale c'è una protesta di milizia che è un gruppo nazifascista qui di Como. Questo gruppo milizia cosa fa? Non è che fa molto, dice semplicemente che se si terrà la conferenza saranno presenti in massa per contestare quello che dirà Alessandra Kersevan. Il sindaco nega l'utilizzo della sala. D'altra parte c'è il comportamento dell'AMPI, che cosa fa? Non fa nient'altro che fare fagotto e trasferire la conferenza non più nel salone particolarmente accessibile e ampio, ma in una saletta piccolina dove ci stanno qualche decina di persone, non di più. e tengono la conferenza lì dentro. Come giustifica l'AMPI questo spostamento? Lo giustifica dicendo che Alessandra Kersevan non avrebbe parlato di foibe, quindi non c'era motivazione di protesta. Io vorrei sapere una cosa, e penso che ce lo chiediamo tutti: perché il sindaco ritira l'utilizzazione della sala semplicemente per un fatto che quelli di milizia si sarebbero presentati a contestare? Primo. Secondo, perché l'AMPI non prende, AMPI, associazione partigiana, avrebbe dovuto impedire una cosa di questo genere e mantenere la sala, non ritirarsi da un'altra parte? Oppure il sindaco ha avuto una minaccia e non ha denunciato una minaccia, tenendo presente che lui è un pubblico ufficiale e quindi la minaccia doveva denunciarla se ci fosse stata. L'AMPI del resto non fa niente, dice che comunque loro non volevano toccare la questione delle foibe e che Alessandra Kersevan non l'avrebbe mai toccata. Ora, siccome questo che succede qui nei dintorni non è l'unico caso, perché a Varese si è verificato nello stesso giorno che il sindaco ha concesso una sala ai nazifascisti per commemorare un boia nazista, questo vuol dire che da una parte fanno una cosa e da una parte ne fanno un'altra. A Milano c'è la protesta contro Claudia Cernigoi che sta suscitando cose simili, e qui siamo pervasi da questo. Da un'altra parte c'è la pubblicazione di Panza di quella storia, controstoria della Resistenza, e io penso che sia il momento proprio di fare un'azione fortissima di diffusione della cultura resistenziale antifascista che sta completamente scomparendo. Sì, è proprio così, hai detto molto bene, Gavino, così tanto ne parlavamo prima, ma qui vicino Roma, nella zona dei Castelli Romani, è stata vietata una manifestazione antifascista proprio oggi dal prefetto perché voleva opporsi alla presenza di Forza Nuova, che viceversa in questa giornata tendeva a strumentalizzare, a portare le sue tematiche, eccetera eccetera. È proprio così come dici tu. Ecco, io allora posso aggiungere un'altra cosa, perché poi qui nel tutto il giro io ho telefonato dappertutto, il sindaco non mi ha risposto, il prefetto non mi ha dato risposta, l'AMPI ha tergiversato, l'istituto storico vergognosamente ha tergiversato. C'è un altro fatto, che il prefetto qui di Como ha detto no, non si possono fare perché sennò ci saranno le proteste di Forza Nuova. Allora chi è questa Forza Nuova? Che potere ha? Perché non lo si può contrastare? Io è questo che mi domando. È così. Mollano le brache di fronte a queste cose. Dall'altra parte c'è un AMPI che io non so più come definire questi. L'istituto storico di Como è ex istituto per la storia del movimento di liberazione della resistenza, quindi questo già dice tutto. Chi sono? Hanno rinnegato tutto completamente. Sì. Io questo che volevo sottolineare. È così, purtroppo, Gavino, e diciamo ci sono ancora, per fortuna, giovani che insomma l'antifascismo lo tengono a cuore, ci badano eccetera, ma se devo dire, proprio da questa ormai vecchia classe dirigente post tutto, post fascista, post comunista, ma soprattutto quella post sinistra, che vengono le nefandezze che tu descrivi, insomma. Infatti è così, è proprio, gli elementi sono questi. Va bene, ti ringraziamo, Gavino, ti faccio tanti auguri. Buona continuazione, grazie, buona continuazione a tutti e a tutti. Ciao Gavino, ciao, grazie. Ciao, ciao. Rise above, we're gonna rise above. Rise, stop. they do. Rise above, we're gonna rise above. When they can't do it themselves. Rise above, we're gonna rise above. Way up high, up your abuse. Fight to stop us, it's no use. Society's out of control. Rise above, we're gonna rise above. Make this smart kids think themselves. Rise above, we're gonna rise above. Laugh at us behind our back. Rise above, we're gonna rise above. I find satisfaction in what they lack. Rise above, we're gonna rise above. We are tired of your abuse. Try to stop us, but it's no use. Torniamo in studio Radio Onda Rossa 87.9. Vi leggiamo, prima di continuare la nostra analisi sulle foibe, un comunicato emesso dagli antifascisti e le antifasciste dei Castelli Romani, ovviamente in tema. Il titolo del comunicato è 10 febbraio, il solito schifo. La questura approva il raduno della formazione xenofoba, razzista e fascista, e aggiungerei nazifascista Forza Nuova, in piazza Pia ad Albano, in via delle manifestazioni dell'assemblea antifascista. Fascista. Le provocazioni non finiscono mai. In occasione della cosiddetta giornata del ricordo, introdotta dal governo Berlusconi e sposata dalla paccottiglia partitica vigente, anche quest'anno i fascisti vogliono farsi vedere. Questa volta usano l'anniversario del bombardamento di propaganda fide per mostrarsi e ripetere le solite falsificazioni sulle vicende del confine orientale, foibe e dintorni. Non è bastato loro il tentativo di colonizzazione dell'Istria con l'italianizzazione forzata, la repressione squadristica antislovena, le condanne a morte eseguite dal tribunale speciale, l'invasione della Jugoslavia nell'aprile 41 in combutta con i nazisti, gli oltre 300.000 morti fatti durante l'occupazione, gli incendi, i saccheggi, la deportazione di oltre 100.000 sloveni e lager fascisti in Italia, dove in 16.000 hanno trovato la morte. Si lamentano perché nel maggio-giugno del 45 a Trieste hanno funzionato i tribunali popolari, ve li diamo noi i numeri. Nel periodo ricordato da Trieste sono scomparse perché arrestate e probabilmente giustiziate 498 persone così qualificate, 122 militari di varie armi, 106 elementi della Guardia di Finanza, 59 civili non meglio identificati, 38 esponenti del partito fascista e squadrista, 17 collaborazionisti, 16 riferiti al CVL provenienti dalla Guardia Civica. Tutti costoro sono stati sottoposti a procedimento sommario, ma le condanne sono state suffragate da almeno 3 testimoni. Parecchi fucilatori e torturatori di antifascisti sono scampati a quella vicenda e sono stati celebrati e decorati anche dall'attuale Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Uno per tutti, il famoso Luigi Papo. L'unica pulizia etnica nei territori della penisola balcanica fu compiuta dagli eserciti nazisti e fascisti, sconfitti poi dall'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia, affiancato alle brigate partigiane della divisione Garibaldi, formate per la maggior parte da militari italiani spediti dal Duce a conquistare i territori slavi. E il comunicato finisce con il riferimento e l'appuntamento del presidio antifascista di oggi a Piazza San Pietro ad Albano alle ore 17. La storia è questa, la storia non si riscrive, fascisti, servi di tutti i padroni, il conto è ancora aperto. Quindi ricordiamo l'appuntamento per oggi alle 17 ad Albano, in piazza San Pietro di Albano, non di Roma, insomma, non facciamo confusione. E questo, insomma, i numeri che richiamava il volantino di questa situazione complessiva a fronte delle innumerevoli stragi compiute da fascisti e nazisti, per chi ne ha voglia, necessità, interesse, insomma, facilmente su internet si trovano queste informazioni. C'è stato un convegno nel 2008 fatto a Sesto San Giovanni vicino Milano, Foibe, la verità contro il revisionismo storico, perché poi questo è il problema, è questo revisionismo, questa cancellazione e della memoria e delle colpe di una parte in particolare delle colpe del fascismo, del Regno d'Italia, anche della monarchia, eccetera, eccetera, che viceversa pesano e non vanno come un macigno e non vanno mai assolutamente dimenticate, vanno sempre riproposte, non per bilanciare, questione solo di bilanciamento, poi quello che successe con l'occupazione durante il alla fine del con l'occupazione di Trieste, dove si vengono richiamate, insomma, no, poi tutte le uccisioni addebitate alle foibe, appunto, per cui oggi c'è l'istituzione della giornata del ricordo, è un ricordo al singolare, non i ricordi, non si ricordano appunto tutti gli altri morti, tutti gli altri deportati, tutti gli altri massacrati, eccetera, eccetera, dalle formazioni fasciste, ma questo per ristabilire, insomma, appunto il processo, la verità storica per cui queste cose sono avvenute. E ancora, prendendo spunto da quanto scrive sia Giacomo Scotti sul manifesto di mercoledì 5 febbraio, sulle foibe un grosso inserto del manifesto, due pagine sulle foibe, un giorno per tutti i ricordi, insomma, proponendo proprio questo, insomma, è una vergogna, no, che si faccia questo revisionismo, e propone umanamente, proprio da un punto di vista umano, che semmai ci sia un giorno per i ricordi, dove vengono inclusi anche gli altri, senza per questo negare quello che successe. E come dice lo stesso l'altro storico Marco Ottanelli, dice: nessuno vuole negare né disconoscere il dramma dei 250.000 profughi istriani e dalmati che dovettero abbandonare le loro terre, ma è necessario ribadire che quello non fu un dramma causato dalla volontà persecutrice titina e comunista, come è stato troppe volte ripetuto, ma fu un dramma causato dalla sete di potere e di sangue di un regime dittatoriale, militarista ed espansionista, che non aveva esitato solo pochi anni prima ad aggredire un altro membro della Società delle Nazioni, l'Etiopia, nel quale aveva provocato non meno di 500.000 di morti in sole 5 anni di occupazione. E su questo pesano enormemente anche in sede di Repubblica Italiana, ormai avvenuta, ormai consolidata, ormai proclamata, le responsabilità di tutta la classe politica, perché i militari responsabili di quelle stragi, oltre che i politici, ebbero le più alte protezioni. Lo stesso Badoglio, considerato dal governo abissino come il diretto responsabile di stragi e bombardamenti con i gas asfissianti, godeva dei favori particolari degli inglesi. Molti in un'Italia che vedeva il passaggio di gerarchi nazisti da Roma in fuga verso il Sud America, fuga organizzata e gestita direttamente dal Vaticano. La cosa non deve purtroppo sorprendere. Lo stesso Ante Pavelic, che è quel fascista messo a capo appunto da Mussolini a capo della Croazia, il più sadico dei dittatori d'Europa, si rifugiò in Vaticano per poi imbarcarsi verso l'Argentina, insomma. Le autorità jugoslave fornirono immediatamente la lista dei criminali di guerra con grande profusione di documenti. Le autorità militari inglesi, preoccupate del pericolo comunista, trovarono fin da subito ogni scusa per rimandare l'esecuzione degli arresti. Quando poi la sovranità tornò completamente al governo italiano, le richieste di estradizione furono semplicemente ignorate. Da Belgrado era stata presentata una lista con circa 800 nomi, tutti criminali di guerra. Essa fu via via ristretta fino ad arrivare al numero quasi simbolico di 40, ma neanche questo indusse De Gasperi e gli alleati a ricercare la verità e la giustizia. Anzi, questi sono stati protetti. Di questo, insomma, il più famoso e infame è sicuramente il generale Roatta, che bisogna notare, insomma, fu processato e condannato all'ergastolo, ma per un altro reato, l'assassinio dei fratelli Rossella, non per i crimini di guerra. Fu riconosciuto colpevole dell'assassinio dei fratelli Rossella e non per i crimini di guerra da lui perpetrati in Jugoslavia e non solo in Jugoslavia, perché era capo del corpo di spedizione italiano in Spagna e comandante della citata seconda armata di Croazia. Mentre il comandante dell'undicesimo corpo d'armata, generale Mario Robotti, il grande deportatore di Lubiana, generale da De Orlando, comandante dei Granatieri di Sardegna, poi sottosegretario del governo Badoglio e poi comandante dell'Arma dei Carabinieri nel dopoguerra. Questo è, attenzione, non stiamo parlando delle cose, questo nel dopoguerra, questo per dire insomma la continuità che si ebbe tra fascismo e repubblica nel non perseguire questi crimini poi nascosti. Insomma, a 60 anni di distanza dai fatti, nel 2004 arriva Berlusconi e insieme ai suoi alleati fascisti, al governo poste fascisti o fascisti che siano, inventa letteralmente questa giornata e cancella, o almeno prova a cancellare, la memoria di intere generazioni italiane e jugoslave, ma anche, mettiamoci pure, l'Etiopia, l'Abissinia, appunto, eccetera, eccetera, che viceversa hanno sì sofferto veramente di questi grossissimi atti messi, effettuati da criminali come quelli che abbiamo descritto. Un breve stacco musicale e poi riprendiamo con una corrispondenza. How could I be? Because I didn't do the crime, yo. Y'all the motherfuckers that's guilty, locking me in solitary 8 years of filth. Kill the messenger, you can't kill the message. Yo, I'm bringing food for the masses. For the masses, or for the masses, and make the food. For the masses, or for the masses, or for the masses, and for the truth. Commencing with the rhythm, I get open on the beat. Let them say what they say about the wig that we be. It's the year 2000, they can't stop me. I, Selassie, the book on food. I write cause half the story have never been told, so no one can stop it. The whole world's dropping out the socket, blowing up like NASA when I rock it. The high-tech ways of the civilized man. Can't stand my people, but you love the suntan. You fly the space shuttle like Dancer and Pansy. You nuke the North Pole and now you got skin cancer. The answer. You see, I fly like Lufthansa. You can value jet, but you taking big chances on crashes. Changing name like Cassius. The classes be making food for the masses. The ship to a speed that's common for the listeners. MCs and wannabe street politicians. In competition with the envious business. They chasing paper dollars to a pop chart piston. Then listen, this isn't me against you, cause the whole world's checking out the things that we do. It's sold to soul, the same eyes, bro. Side, I like the Sprite. For the masses, for the masses, and make the food. For the masses, for the masses, for the masses, and make the truth. For the truth. For the masses, for the masses, and make the food. For the masses, for the masses, for the masses, and for the truth. For the truth. Put your fist in the air now. Show me that you care now, and that you really know how. Carry 12 bitch. Me not go stop preach up the press message. As long as you still like I'm a sister and a bitch. The little pig need it. Me not go stop preach me ball. No, no, no. Me not like what I want in a dig ghetto. Man kill another man in a somewhere too. We have to take a stand and let them know. Hey, what I me ball. No, no, no. Me not like what I want in a dig ghetto. Man kill another man in a Frisco. We have to take a stand and let them know. Hey. Torniamo Radio Onda Rossa 87.9, abbiamo in collegamento Alessandra Kersevan, coordinatrice della collana Resistenza Storica della casa editrice KV. Ci senti innanzitutto? Pronto? Buongiorno, vi sento. Ok, perfetto, ci senti. E niente, parlavamo appunto dell'argomento e... Non so se un buongiorno a Alessandra, stavamo parlando appunto buongiorno. Delle foibe e in particolare proprio con un collegamento un compagno di Como ci diceva sì. Che in quella circostanza che tu dovevi intervenire era previsto una iniziativa nella sala comunale, tutto è stato sospeso perché Forza Nuova ed altri insomma milizia minacciavano chissà cosa, insomma, è questa la situazione oggi anche per chi come te si è dedicato insomma da tempo a queste ricerche, a questo ripristino della verità, insomma, trovarsi in queste situazioni? Vabbè, allora innanzitutto chiarisco che la conferenza poi è stata fatta in una sede di una specie di casa del popolo e ha visto comunque la partecipazione di oltre 120 persone, quindi diciamo che la gente di Como ha dimostrato comunque di essere interessata a un argomento sì. che non è facile, e sono stati attenti per tutta la mia conferenza. Poi ci sono state anche domande, insomma è stata una cosa molto molto interessante. È molto grave invece che il giorno prima il sindaco, che è un sindaco di centrosinistra, credo sia PD, lui abbia vietato la sala comunale che aveva già concesso sotto pressione di un'organizzazione che si chiama Milizia e che è tutto un programma, credo già soltanto il nome, basta andare poi nel suo sito internet, sono cose da paura. E quindi è sicuramente grave che a una persona come me, che io non ho nessun ruolo politico, sono una studiosa, una ricercatrice storica e facevo una conferenza in cui comunico semplicemente quali sono i risultati delle mie ricerche e delle ricerche degli altri che fanno parte del gruppo appunto di resistenza storica. È grave che ci venga negata la possibilità di parlare in una sala pubblica. L'altra cosa da chiarire è che aggravo ulteriormente la posizione di questo sindaco, è che in quell'occasione io dovevo parlare dei campi di concentramento fascisti. Quindi di una vicenda che è molto precedente alla vicenda delle foibe e che riguarda comunque la storia del confine orientale, e questa sì è una vicenda di cui veramente in Italia si vuole non parlare. Quindi sì, in Italia oggi, in corrispondenza in particolare della giornata del ricordo, ma ormai il periodo si è esteso a almeno un mese prima, un mese dopo e poi anche in altri momenti dell'anno, si vive in una sorta di sospensione della possibilità di esprimersi, di raccontare, di parlare, di fare storia, perché ormai c'è una verità di Stato, deve essere quella, la verità è una verità antipartigiana, una verità che accetta le versioni che già i nazifascisti nel 43 e poi diciamo l'irredentismo più estremo di destra aveva già confezionato nel 45, e questa è la verità che ci è stata propinata 70 anni dopo e che è diventata con la giornata del ricordo una verità di Stato. Ecco, su questo noi abbiamo, insomma, attraverso anche i tuoi scritti, insomma, ci siamo sentiti anche in altre occasioni e anche di altri storici che si occupano del problema foibe e non solo, abbiamo dato già il minimo di descrizione, insomma, sufficiente, però a te in particolare chiedevamo delle considerazioni, dei giudizi su questa fase, anche e chiederci perché si è arrivati a questo, no? Che può sembrare una domanda sciocca, ma non lo è, se proprio, mi diceva questo compagno, confermami se è vero, proprio nella circostanza in cui che tu hai vissuto a Como, di spostamento, di comportamento di un certo tipo, anche Lampi, perfino Lampi, insomma, è stata piuttosto accondiscendente, insomma, non ha fatto opposizione nel vero senso della parola a queste pressioni che venivano da organizzazioni di destra. Ecco, come si è arrivati a questa? Le responsabilità maggiori sono nella sinistra, in questa perdita completa di identità, in questo revisionismo imperante, oppure vanno cercate anche in altri ambiti? Allora, a Como io ero invitata specificamente dall'ANPI locale e dall'istituto locale. Una opposizione a questo diktat, diciamo, del sindaco c'è stata. Io adesso non posso valutare a distanza, perché non abito a Como, quanto sia stato fatto, cioè so che hanno fatto in modo che la che la conferenza venisse fatta ugualmente, come dicevo, e quindi penso che prossimamente faranno anche delle azioni nei confronti del sindaco per impedire che in futuro succedano cose di questo genere. Però è vero che a livello italiano ormai siamo in una deriva da parte di quella che un tempo era la sinistra, impressionante. Vi faccio presente che mentre appunto molte ampi locali cercano di mantenere ancora viva insomma la ricerca su queste vicende e l'analisi diciamo approfondita di cosa è stata la Seconda Guerra Mondiale sul confine orientale per contrastare anche queste versioni ufficiali, purtroppo invece a livello centrale, a livello diciamo di dirigenza nazionale, l'AMPI sta cedendo su molti fronti. Faccio presente che in Veneto, a Cadoneghe, in questi giorni è stata annunciata una iniziativa veramente impressionante fatta dall'AMPI locale insieme con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, il cui titolo è: eravamo fascisti, eravamo comunisti, eravamo semplicemente tutti italiani. Cioè, che è una praticamente la equiparazione fra repubblichini e partigiani. Cioè, quello che avevano tentato di fare già Violante e Fini nel 97, quando Violante chiamò i ragazzi di Salò. I ragazzi, il termine appunto i ragazzi di Salò, eccetera, e che a quel tempo era stato comunque contrastato, tant'è vero che poi per anni hanno dovuto lavorare per riuscire ad ottenere appunto questo risultato oggi, in cui un'iniziativa comune fra AMPI e Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia vede praticamente l'equiparazione fra partigiani e repubblichini, e con quell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia che fino a un anno fa nel proprio statuto aveva la rivendicazione della messa in discussione del trattato di pace del 47 e la riconquista delle terre perdute dell'Istria, quindi una rivendicazione da continuazione della guerra. Sì. E un anno fa hanno cambiato questo articolo soltanto perché evidentemente qualcuno gli aveva fatto presente che poteva essere un ostacolo per un abbraccio come sta avvenendo adesso. Certo, però di fatto la politica, il comportamento, le prese di posizione di questa associazione in questa occasione, poi per tutto l'anno, sono effettivamente di rivendicazione, di messa in discussione del trattato di pace. Quindi è qualcosa di spaventoso che sta succedendo in Italia oggi, e io invito gli ascoltatori anche a riflettere su questo fatto, perché si stanno dando tanto da fare su questa cosa che potrebbe essere già finita da tanto tempo, perché fino agli anni 90, fino a quando non è stata riesumata questa faccenda delle foibe, sul confine orientale avevamo vissuto benissimo, in piena armonia fra italiani, friulani, sloveni, eccetera. Il confine era trasparente, c'erano rapporti sia economici sia culturali, eccetera. C'era già in qualche maniera quella che con un brutto termine viene chiamata la storia condivisa, perché si erano superate anche psicologicamente queste cose. Sono state negli anni 90 di nuovo riesumate, evidentemente per altri motivi. Quando la Jugoslavia è stata di nuovo distrutta, smembrata, non c'è stato più nessuno che poteva difendere quella memoria storica, si sono scatenati come iene sulle spoglie di qualcosa, e stanno continuando con adesso purtroppo l'avallo di una buona parte di quella che un tempo veniva chiamata la sinistra e che oggi veramente con la sinistra non ha più nulla a che fare, perché rifiutano a questo punto perfino la memoria storica della resistenza. Certo, è così. Volevo chiederti un'altra cosa un po' fuori dai canoni, e riguarda in particolare come è vissuta dal lato jugoslavo, se così ancora possiamo dirlo, dalle popolazioni slave, questo cambiamento proprio enorme che tu hai descritto adesso nell'atteggiamento, nella sensibilità generale dell'opinione pubblica italiana, ma soprattutto nella sinistra italiana, quindi con questa colpa mostruosa che viene addebitata e sovradeterminata, insomma, alla sì, non, credo che hai capito insomma cosa voglio dire. Sì, ho capito, sì, certo, alla parte jugoslava. Allora, io diciamo non ho rapporti frequenti con la Slovenia in generale, diciamo, conosco storici sloveni e croati, e so che naturalmente anche nelle repubbliche nate dal disfacimento della Jugoslavia c'è stato in questi anni un processo di revisionismo storico, cioè coloro che in questi anni hanno preso il sopravvento anche in certi momenti della storia, andando anche al governo, le destre in Slovenia, eccetera, che si sentivano eredi, no, di quelli che erano stati proprio i collaborazionisti dei tedeschi, anche i sloveni in Croazia prima hanno cercato di distruggere la memoria della lotta di liberazione jugoslava, eccetera. Ci sono state naturalmente delle resistenze, e anche in queste repubbliche c'è una, come dire, una lotta culturale su queste questioni. Non c'è una visione unitaria, come dire, noi siamo sloveni, gli altri sono italiani, una contrapposizione di questo tipo. C'è allo stesso interno della Slovenia, della Croazia, ci sono posizioni differenziate. I governi hanno preso delle posizioni nei confronti della giornata del ricordo e delle affermazioni del Presidente della Repubblica, differenziate a seconda di chi era il Presidente in quel momento. Quindi diciamo che è una situazione molto simile a quella che viviamo in Italia, salvo il fatto che naturalmente qui, proprio diciamo con la giornata del ricordo, il revisionismo storico, nel senso del ribaltamento delle responsabilità della Seconda Guerra Mondiale, ha preso il sopravvento, cosa che cioè in Slovenia in particolare non è ancora, ecco, ufficialmente. Però, la differenza è questa, insomma. Cioè. Sì, c'è però un po' in tutta Europa, no, questa tendenza ormai a mettere in discussione un po' i risultati della Seconda Guerra Mondiale, nel senso di mettere in discussione quella parte dell'antinazifascismo che aveva avuto una visione di cambiamento sociale, di uguaglianza e di costruzione di una società diciamo diversa rispetto a quella capitalista, quella che aveva creato le basi delle guerre del Novecento e che ha continuato poi a farle. Per cui sì, è in corso un processo storico culturale che tende a rivalutare la parte semplicemente, come si potrebbe dire, di antinazismo liberale, fra virgolette, mettendo da parte e criminalizzando tutta quella parte che è stata la più attiva e la più presente, senza la quale i nazisti avrebbero vinto, che è stata invece la resistenza comunista, socialista, la resistenza che voleva appunto un cambiamento sociale. E in pratica questa si potrebbe dire che questa revisione dei fatti di 70 anni fa serve in realtà per una lotta culturale attuale, per impedire che si formi una presa di coscienza collettiva di cambiamento. Vogliono praticamente che rimaniamo tutti quanti divisi, tutti quanti con i propri piccoli problemi quotidiani, che non si ricrei un antifascismo e un anticapitalismo comune, che non si capisca che c'è una continuità nella storia, eccetera. Insomma, vogliono praticamente disarmare la gente rispetto a qualsiasi possibilità di ragionare, di mettersi assieme. Anche se così facendo, e poi se ne vedono proprio in questi giorni in previsione delle elezioni europee, insomma, tutte le paure che vengono fuori, hanno rimesso in moto i movimenti nazionalisti, quindi il nazionalismo in quanto tale. Quando si muovono queste cose non si sa dove si va a finire. Come diceva Primo Levi, insomma, la belva non è morta, è sempre lì in agguato e bisogna sempre tenerla sotto controllo, insomma. Certo, e non è la prima volta che succede nella storia questa, no? Certamente. Bene, Alessandra, noi ti ringraziamo per questo tuo contributo e ti facciamo i migliori auguri per la tua attività, sperando, insomma, che di conferenze tu ne possa fare. No, io ne sto facendo comunque moltissime e nonostante tutto, insomma, quindi io e gli altri anche del mio gruppo cerchiamo comunque di andare avanti incontrando molta solidarietà, anche molte difficoltà, vabbè, comunque. Ecco, vedi, dei giovani, un'ultimissima cosa, diciamo, sono i giovani che partecipano a queste vostre iniziative? Ma sì, sono sempre molto molto frequentate, sì, diciamo che c'è interesse. Benissimo, questa è un fatto importante, insomma, perché o si riparte da lì o se no i vecchi forse non sono più in grado per certi versi. No, questo io non lo direi neanche. Penso che su questa cosa io sono contraria un po' a questi discorsi sulle divisioni generazionali, eccetera. Se si permette di ragionare, di parlare, di discutere, di trasmettere le conoscenze, si trova la stessa rispondenza in tutte le generazioni, tutte le età. Va bene, sì, sì. Grazie, va bene. Alessandra, arrivederci. Grazie, ciao ciao. Bene, sulle note di Stalingrado chiudiamo questo approfondimento sulla cosiddetta giornata del ricordo.